gone, headed for shore, bringing certain calamity. Just when you thought you'd frighten none, can be nothing worse than this catastrophe. Ja, bring down fire and brimstone, carry a stony heart like Pompeii. It's like a funeral pyre, eyes burn with a eye of gun. Port Royal, siamo qui. Solito di lei, se no non siamo noi. Ammazza che slogan, oh. Manco follow the line, follow the bites. We live in too bad time, it's too late. Some say they be waiting for the right time, the right time. The horizon sees still at the sunshine. No matter, cause all tides rise, it's all ships at time. Since I'm hurling down the street side, sinking deep below the quagmire. The other mates go down, down, down to the oh yeah. What we gonna do? Yes. Absolute power corrupts. It's the absolute truth. Port Royal. Devil's forbidden fruit. Don't you pick a bad batch to in this youth. Living like a bad seed. Port Royal. Making choices, yeah. You just can't see how the outcome destroys and deceives. Watch a twisted heart. Be made of stone to bring out the worst in me. Sure, I might be made of stone. You're my anchor when I'm sinking. This monster lives underway on the bottom of the sea. In a cave, no one can say or see or find or feel me. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast you down if by your turn to stone. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast you down if by your turn to stone. Siamo tornati qui come ogni mercoledì. Abbiamo sempre, dicevamo che eravamo su Port Royal, il nostro hotel lo sta giocando, cioè innamorato. Come sempre è innamorato. Come sempre lo prendiamo un po' in giro qui su Port Royal, che siamo ritornati come dicevamo ogni mercoledì dalle 21 alle 23 su Pirate Radio. Questa sera sarà un'altra puntata molto ma molto ricca, davvero cicciotta come puntata. Avremo una chiamata live con Pietro Rota, il capitano dell'Atletico Brighella, Athletic Brighella, scusatemi, confondo sempre tra Athletic e Atletico. E poi avremo il primo live della storia di Port Royal, live and direct dalla Brancaleone. Non solo la musica che ci piace a noi, ma anche musica live da questa sera. E adesso listen up, Roma in Virgo. This one is for all the hardworking people, Jamaican people. Some don't know what it feels like. Be at work from 6 in the morning straight up to midnight. Working midnight. I'm here to tell you. You think it easy if a barber stand up in the shop all day and nothing like one? You think it easy if a farmer stay up in the sun all day? I blow the farm. It no easy being a vendor nor a taxi man. No. You think it easy if you stand up and watch your youth a cry before. Who feels it, knows it. We are feeling from a little and a grow. Who feels it, knows it. Sometimes we feel like we let go. Who feels it. Questa Otello la dedica al suo amore. Who feels it, knows it. Only judge and know. It's not easy for ear sharp all day and nothing I go on. It no easy for eagle and dung in the marketplace and can't sell a con. Manicurists rent them both and the ladies now that them nails, no. Street vendors and the boiling sun and them now make no seal. So I won't feel the nothing. We are feeling from a little and no grow. I won't feel the nothing. Sometimes it feel like we let go. I won't feel the nothing. We are feeling from a little and no grow. I won't feel the nothing. Hustle and a fight is. And when we no like it, still working on and on. From dusk till dawn. So I won't feel the nothing. We are feeling from a little and a grow. I won't feel the nothing. Sometimes it feel like we let go. I won't feel the nothing. We are feeling from a little and a grow. I won't feel the nothing. Yes people, questa è una ricca puntata, questa di mercoledì 10 maggio. Primo live Jimbo in studio qui al Branca. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche di Telegram, il nostro canale ufficiale di Pirate Radio. Un saluto ai fratelli Kawa. Sì. Love Song Port Royal. Forse l'aria di primavera, forse la voglia di avere più live direttamente qua in radio. Ovviamente prima o poi apriremo anche il Branca, quindi piano piano, o meglio, apriremo la radio al Branca. O le persone potranno venire ad ascoltare noi in diretta. E intanto andiamo avanti. Our Fall, Better Land. When you understand you better find a better land. When everything around you collapses except for your plans. Because if you're the strongest, you will have some of them against. Beware of men and trust your faith. I feel almost persecuted from people who say I'm wrong. Some say I'm just stupid. See them in views of my songs. because if you're the strongest, you will have time again against. Beware of men and trust your faith. E sul rhythm di Right Stuff, Our Fall, sulla versione Better Land. Ed ora proseguiamo ancora con Port Royal. Ringraziamo sempre in questi casi Virtus e la Red Golden Green. In questo caso li ringraziamo con un dub plate di nostro fratello Virtus. Por Fire Upon Babylon. Yo man, is a dub plate champion. Fire Upon Babylon. Men know a better song. Article sound. Don't select that. Take her fire upon Babylon, Nadi Bay. Watch come around, we'll tell her have no rest. Take her. When you hear this, that plate fire upon Babylon, mash it up in every place. Fire upon Babylon, Nadi Bay. Watch come around, we'll tell her have no rest. Take her. When you hear this, that plate fire upon Babylon, mash it up in every place. Mash it up. Well, you know what, this your sound make you dance. Oh boy, me a hey, come follow me no man now, follow me no man now, follow me no, hey. Me tell you no, follow me upon the bush. Remember what the champion Italy. We come from we fire upon Babylon. Hush make me feel like a judge, a soldier. What tell you make me feel like a Harry man soldier. Move your body from the legs to the shoulder. Fire upon Babylon, the ruling sound. Hush play that. Cause the girl them a bubble, article sound them a killer from murder. Take her, fire from Babylon, not the base. Watch come around, no tell her have no rest. Take her, when you hear this that blade. Fire from Babylon, mash it up in every place. Take her, fire from Babylon, not the base. Watch come around, we tell her have no rest. Take her. Hey. Now take a pill, me say now take a pill. Fire pan Babylon, fi the Babylon Hill. Come, Babylon Hill, me say Babylon Hill. F and in a de bash, we na kill fear ill. Come, what do you feel, me say what do you feel? Good vibration, violence, we na deal. Laugh is a will, me say laugh is a will. Turn and turn around from the top to the hill. Take her, fire pan Babylon, na the base. Watch go my road, no tell her have no rest. Take her. Piano piano continuiamo. Bless up Branca Leone. E meno male che chi c'ha Fulvio non trema mai. Potevamo far tutto in un'altra maniera, ma ora abbiamo deciso di far così. Che devi fare? Ma solo perché c'era Fulvio, sennò facciamo tutto da noi. Grande Fulvio. Figurate chi te sente Furbio, andiamo. È il MacGyver del Brancaleone, Furbio. Se vi serve un tecnico audio, suono, luci, sapete dove trovarlo. Ah, luci no. E siamo quasi pronti, eh. Adesso siamo pronti per ascoltare intanto la prima canzone scelta dall'ospite che avremo al telefono con noi, Pietro Rota, capitano dell'Athletic, questa volta l'ho detto giusto, Athletic Brighella. Quindi andiamo ad ascoltare Daniele Silvestri, Coiba. Spero che riusciamo ad ascoltare, più che altro. C'è qualche problema. Fulvio! sì, vabbè, intanto andiamo avanti. Ascoltiamo qualche altro dub plate da parte dei nostri fratelli. Anche Pietro non risponde, quindi andiamo avanti così. Sì, siamo pronti. Fire upon Babylon! What is rapper representing for Fire upon Babylon sound? Big up my brethren, Otello, Towali. Big up Osh, Smash, Hilario, Large himself. Roma, Sierra Maestra, hear this. Politics, I'm a rob way. Fire upon Babylon, I'm not like way. Fire upon system, one trick. Society want to judge me. And now we're fighting, now we're fighting, now we're fighting. This your fire, I go burn it. Fire upon Babylon. Rise and take a stand. In the dance side. You know this your comedy. When I like baby we rule. Find a remedy. Tell my brutalized we soul. Soldiers in the battlefield filled with not rich people. Fire upon Babylon. Them play the drone, drone. Them play the top of top drone. Them play the dub, dub. Them play the dub and up dub. Every single dance I'll them play. Oh, reggae music I'm a carry away. And now we're fighting, and we're fighting, and we're fighting. This your fire, I go. A positive fire from fire from Babylon. Oh Lord, Sierra Maestra. For the mama, for the children, for the papa, for everybody, fire from Babylon. Damn play every single day. United we stand, divided we fight. Said to one and a half, a fire upon Babylon. It's a all the wicked am a gone. All the good vibes in me. Big up, fire upon Babylon sound. Fire upon them, me brethren, Otello, Towele. Fire upon them, and the whole family. Wow. All right, hey. But about my name, I know my job, the place on the base, I made them all have fun. Why you pump Babylon a bun? Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no buck to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to sh** to. Don't make them spot to. Unless you carry salad to. A beer tough thing come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then we learn from them start it. With the pin file long and it a be trapping. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a dog house tough if you don't have it. Just a far eye stands alone. Welcome to Jam Rock. Welcome to Jam Dong, where people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So why go no one if you with me? To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with them. Them don't do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the replace it. And them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fat with the extra in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, said them a lock. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road blockage but the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out of rooms, I broke back rocks. Welcome to Jam Rock. Who's your leader? Who's your leader? Who's your leader? Who's your leader? Who's your leader? crisp. Who's sweet nigga will that? Who's a nigga to wake him up? Young trick, young trick, young trick. Young trick, young trick. Young trick. Yes, e piano piano ci avviciniamo all'intervista. Cinque minuti. Tutti pronti, Portrogliano? Venceremos, adelante, oh vittoria, oh muerte. Venceremos, adelante,

nel baluardo dietro degli spalti a San Paolo. Rondo sulla storia di giorni conquistati, fini della memoria, pirati a San Paolo. Tanto sulla gloria di giorni conquistati, fini della memoria, banditi a San Paolo. Gemeinsame Gesang und Lieder folgen viel, gesungen von Chören, beladen das Lebens viel. Cinque minuti e saremo live. E allora ci siamo adesso, Sin. Osh, dai controlli, giusto per il scambio. E poi finalmente ringraziando ancora Piero Europa, il capitano della Villa di Brighella. È stato veramente un momento bellissimo. Siamo pronti anche per il primo showcase, mini showcase, due o tre canzoni, poi due domande, poi presentiamo comunque il nuovo lavoro. Non ti preoccupare che poi alziamo tutto, che ci frega. Siamo pronti allora? Che facciamo? Tu sei pronto? Siamo pronti? Siamo tutti pronti? Primo showcase della storia di Pirate Radio in diretta dal Brancaleone. Jimbo! Una sirena, non ce l'avevo, una sirena. Oh! Eccomi, buonasera a tutti, ringrazio i ragazzi, Branca, l'ospitalità, posto bellissimo, tanti ricordi, insomma c'è un po' di emozione stasera, Risuona nell'alba un canto continuo. Cerco un appiglio guardando nel buio, inoltre ogni passo più in là, ecco un punto tangibile.

Ioia, mumu! Senta pure mori original Giovanni Killa che ha solamente per fai a pom Babylon sin. Big up Otello che è Towel, big up Pietro che è Osh. Yes, Emanuele che è Smash, Ilario e che è Ilario. Yamu mo! Aha! Senta pure mori original Giovanni Killa che ha. Na na na na na na na na na. Senta mosta combinazione speciale. Na na na na na na na na na na. Zoma mo cuki la chiat. Show. Tu brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se metti a. Cucu brucia. Fai a pom Babylon. Siamo tornati dopo l'intervista e la live con Jimbo e Rufino. Smash, per sentire la buona vibra che dai Lario arriva e la potenza della musica che nessuno mi limita. Ogni giorno a mia mi stuzzica la voglia di cantare, ballare, esporre la mia lirica. Mo amo, vogliamo, ve ne caniscia l'amo. L'alba aspettavo, ve ne caniscia l'amo. Senta buono original, fai a pom Babylon Champion Soul. Cucu brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se metti a. Cucu brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo clap. Boom! Ogni guagliuna chi tova li senta. Ci piglia buono tutto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimana contenta. Ho sabato cuffata tu come palanca. Sì, sta musica c'è piaciuta. Come l'abbiamo sentita subito poi l'abbiamo amata. Poco dopo l'abbiamo conosciuta e imparata. Capita e rispettata. Tanto corona super sempre conservata. Cucu brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Brucia quando saci ma se metti a. Cucu brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bello bombo clap. Avviciniamo piano piano alla chiusura di questa puntata ricca di ospiti. Primo live showcase di Jimbo e Capobianco che ringraziamo. Abbiamo fatto anche delle foto a testimonianza della prima di quella che è stata live di Pirate Radio. E le troverete live queste foto poi sui nostri canali social, quindi seguiteci. Oltre che a salutare ancora tutti quelli che ci ascoltano e ci seguono tramite il canale social di Telegram, anche su Instagram, Facebook, Bombo Clutch. Take control of me. We find hide and Make It Burning, burning come questa puntata di Firebomb Babylon con Port Royal. Una puntata davvero cicciotta, e si sono fatte le 22:48, quindi siamo arrivati quasi alla fine, ma è una puntata bella carica. Diglielo Coffee, burning. Mommy say be doctor, granny say be preacher, want fi be a rasta, daddy say be neater, Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with a talent to fi feature, blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher, coffee pan up set a track, see me bring the heat, yeah. Come with the fire, the city burning, don't me just a turn it up fire and keep it burning. Until it's done. Yo. His story is good until we tell another one. Meanwhile, sell another gun and blame them if they use it up to kill another one. Well, it's still before the storm. We set sail against the currents and the norms. Here we are. Our God is now or never.

E sulle note di Late and Night, perché è tardi la notte, anche se sono le 22.59, quindi quasi le 23. Ma noi vi salutiamo e vi ricordiamo l'appuntamento settimana prossima, sempre qui in diretta dal Brancaleone con Port Royal su Pirate Radio. Ringraziamo ancora Jimbo e Pietro Rota, capitano dell'Athletic Brighella, Jimbo e Rufino, che sono stati qui live, primo live in diretta dal Brancaleone qui per Port Royal. E adesso vi voleva dare un saluto anche il nostro Osh. Ah, vabbè, un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche di Telegram, e ovviamente ci potete riascoltare tramite podcast, che prima o poi riusciremo a spingere sui nostri canali social. E puoi spingere, che puoi spingere, spingi di nuovo e vi acchiappa questa traccia. Vabbè, visto che ci tenete tanto, buonanotte a tutti e a tutti. Ultima tune, bombo serata. Grazie ancora a tutte e a tutti. Late at night, protege la AEC. The change, not feeling safe, tell me who can relate, on who can we wait, some things not adding up, who calculate, when they're shoot out for days, when the streets hot, three glocks, beat shot, six pants, kick back, knee knock, fall flat, tree chop, crime scene, see cops, see stock, who see, not me, wheel back, no, it's always the ones who don't act, see my maze, won't see the difference till things complicate, well, every time you feel as if we have a chance, man, them run me. Pirates to wicked city shake up. Like Port Royal, who really loyal? If all that matters to a man is survival. Peace in them side, just a peace in them pride. We should rest in peace to their rivals. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.